Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis e da Chiara Albicocco. Ciao Chiara. Ciao Maurizio, buonasera a tutti. Allora, siamo giunti finalmente alla terza puntata della nostra trilogia dedicata alle sostanze meno nobili con cui, ahimè, però abbiamo sistematicamente a che fare dopo il cosiddetto umido, cioè rifiuti alimentari, e dopo la puntata di ieri dedicata a pannolini e assorbenti vari naturalmente usati. Chiudiamo con, e qui insomma potremmo inanellare una sequenza di sinonimi, di allusioni, di non detti e così via, ma almeno una volta chiamiamoli col loro nome, chiudiamo con pipì e cacca. Ebbene sì, vabbè. Insomma, Chiara, allora, rotti gli indugi, il punto è il seguente: la depurazione delle acque nere è uno snodo cruciale di tutto il sistema sanitario e di tutela ambientale, per ragioni che, insomma, Chiara, non c'è bisogno di spiegare, credo. E d'altronde quello della depurazione delle acque è anche un processo molto energivoro che genera a sua volta dei rifiuti che vanno smaltiti, parliamo dei fanghi di depurazione che rimangono appunto una volta completato il processo. Però, insomma, come abbiamo imparato in questi giorni, possiamo guardare a tutta questa problematica anche da un altro punto di vista, sì, vero Chiara? Guardiamola dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista creativo, chiamiamolo come vogliamo. Il famoso bicchiere mezzo pieno, ecco. Sì, assolutamente sì. Allora, grazie, lo sappiamo, al trattamento di questo tipo di rifiuti, con delle reazioni che non stiamo qui a spiegare, comunque anaerobiche, quindi vale a dire senza ossigeno, riusciamo a produrre del biogas. Del biogas che è un mix di anidride carbonica e metano, possiamo chiamarlo anche biometano, che per primi i cinesi, ma anche gli americani e poi ovviamente gli europei, quelli del nord, hanno pensato bene di utilizzare. Io so che addirittura in Cina praticamente tutte le famiglie di contadini, anche piuttosto poveri, allevano molti maiali da quelle parti e hanno una fossa dove custodiscono producono biometano. Io mi sono un po' informata, ti ho portato un po' di casi, soprattutto vicino a casa nostra, ecco, in Europa, e ce ne sono tantissimi. Uno fra tutti è quello per cui in Norvegia si pensa addirittura ad alimentare gli autobus cittadini. Ti do qualche numero per farti capire: in una città che ospita all'incirca 1.300.000 abitanti, come Milano ad esempio, equivale alla produzione di circa 10,4 milioni di litri di carburante. Ah, però, insomma, che noi spediamo normalmente giù per lo scarico del water. Assolutamente, mi stai dicendo sì, questo, e che qui appunto potremmo riutilizzare attraverso questo biometano. In questo modo trattato si potrebbe ottenere appunto il carburante per far andare 300 autobus. E sempre parlando di carburanti, parliamo di bioidrogeno. Cioè, attraverso i nostri composti organici possiamo ottenere il bioidrogeno e farci andare un'automobile. La stanno già realizzando coloro che appartengono alla società Orange County Sanitation District, penso che sia una società olandese, in grado appunto di convertire i rifiuti umani in idrogeno. Insomma, come diceva De André, no? Ecco, dai diamanti non nasce niente, ma dal letame, ecco, nascono i fiori. Beh, senti Chiara, insomma, tu ci hai parlato di cosa fare, diciamo così, con la parte solida. In Svizzera, invece, in particolare l'EAWAG, che è l'Istituto Politecnico Federale per la Ricerca sulle Acque, sta sperimentando una tecnologia che permetterebbe di sfruttare bene la parte liquida, insomma, la pipì, anche perché, sorpresa, è la pipì la parte più problematica della questione. Bastian Etter, che è ricercatore dell'EWAG, ci spiega, tanto per cominciare, perché. L'urina contiene tanti nutrienti che si arrivano ai laghi, ai fiumi, causa l'eutrofizzazione. Vuole dire che crescono delle alghe e creano dei problemi nei laghi. E questi nutrienti sono molto importanti per l'agricoltura, e così se li recuperiamo dall'urina possiamo produrre un fertilizzante. Ecco, tanto per dare un'idea, qual è l'impatto dell'urina sul quantitativo complessivo di sostanze che poi si riversano nelle acque e che danno luogo a eutrofizzazione? Ci sono diversi nutrienti, il più importante è l'azoto e il fosforo, e se parliamo dell'azoto, l'urina contiene il 90% dell'azoto totale tra l'urina e le feci, e il fosforo quasi 70%. Come proponete di risolvere il problema? Noi proponiamo di separare all'origine, vuole dire al bagno. Sì. Quindi abbiamo qui dei bagni speciali con due tubi che escono. Un water diviso in due praticamente? Sì, esattamente. Quindi c'è l'urina che parte in una parte e le feci dell'altra. E noi raccogliamo l'urina per trattarla in una macchina speciale, un reattore, come diciamo qua, e togliamo i nutrienti per produrre un fertilizzante. Dove si sta sperimentando questo sistema oggi come oggi? Allo stesso tempo sperimentiamo qui a Zurigo e anche in Sudafrica, perché il processo è nuovo e vogliamo provare come funziona in diversi posti. Ecco, in Sudafrica c'è l'esperimento più grosso, di cui tra l'altro lei è il coordinatore, no? Questo progetto VUNA. Quali sono i numeri? I numeri sono qui a Durban, in Sudafrica, ci sono adesso quasi 100.000 gabinetti speciali che separano l'urina, e quindi il municipio ci ha chiesto di sviluppare una soluzione per come trattare l'urina. Ecco, vabbè, se volete dare un'occhiata a questi water del futuro, li trovate facilmente su internet digitando No Mix Toilet, che poi insomma è un po' un incrocio tra un water tradizionale e un vespasiano, ma mi fermerei qui con sì, i dettagli. Sì, non entriamo nel dettaglio, no. E allora a questo punto, a proposito di water del futuro, senti questa. Sono stati progettati nel centro di robotica dell'Università di Bristol dei robot chiamati Ecobot, e sono giunti, pensa, alla terza generazione. Questi robot praticamente si nutrono di frutta marcia, avanzi di cucina e pure di escrementi. Ecco, lui, insomma, il robot li sintetizza, in qualche modo li ricicla e pensa, ne produce energia elettrica. Questo che cosa significa? Che potrebbero avere una applicazione sia nello spazio, quindi per lo smaltimento dei rifiuti organici degli astronauti, ma perché no, nei nostri WC di casa. Un bel WC robot, io me lo comprerei. Senti Chiara, ma alla fine di questa 3 giorni, quale potrebbe mai essere la morale? Tu cosa Sentiamo. Ne pensi? E la morale di questa storia è che la merda non è così brutta come la si dipinge. Beh, insomma, ringraziamo Elio e le Storie Tese per averci tolto dall'imbarazzo. Grazie Chiara Albicocco, grazie a Valeria Bernardi che ci ha accompagnato in questa strana avventura. Appuntamento a lunedì.